Ma cosa c'è, un mazzo di carte? Dammi la black a sto giro, dai. Questo non me l'aspettavo. Stasera black. Ok. Che cos'è Neurogreen? Ma è un... è un... boh, è una piccola rete trasversale potenzialmente... potenzialmente, boh, interessante, che stiamo cercando di mettere su fra piccole realtà, che è nata a Milano, però in questo caso si sta espandendo verso Torino, anzi diciamo che le risposte a Neurogreen a Torino sono state buone in questo caso, perché come dire, il rosa della samba si è ben amalgamato, mi sembra. Quali sono i colori di Neurogreen a parte il verde? Ma non lo so, guarda, l'immaginario che abbiamo, cioè che ci è venuto immediatamente da utilizzare, è stato questo contrasto del rosa sul verde, cioè che alla fine abbiamo usato anche per la locandina di questa iniziativa, e che sta sostanzialmente a dire che questa cosa è stata fatta con Samba Band Torino, che è stata molto ricettiva, e invece, e come dire, cioè, ha permesso di unire le due cose. Ce la farà Neurogreen a introdurre la tematica ecologista radicale nel movimento italiano, dove ha scarseggiato un po' negli ultimi, cioè da sempre insomma, a parte qualche piccola corrente qua e là? Diciamo che questa è la... è un po' la scommessa, nel senso che ci sembra che attualmente non ci sia molto questa attenzione, e in questo senso Neurogreen potrebbe essere qualcosa che, cioè, agisca trasversalmente, ovvero che non voglia essere una parte di movimento, non voglia porsi in quel senso, ma che sia una cosa trasversale che può tenere in mezzo tantissime azioni. Neurogreen è un logo? Ma direi che al momento lo è prevalentemente, cioè anzi, cioè, diciamo che il passaggio più importante mi sembra che sia quello dal logo alla carne, cioè nel senso che, cioè, il logo comunque non deve allontanarsi troppo dalla carnalità delle persone. Grazie. Carlo per Radio Hack, 22 gennaio, Torino.